Partiamo proprio da qui, perché questa manifestazione a Giugliano? Perché Giugliano oggi, come sempre, rappresenta, come dire, lo sfogatoio dell'emergenza di turno dei rifiuti in Campania. Perché qualsiasi cosa accade in Campania per quanto riguarda l'emergenza dei rifiuti, Giugliano è sempre visto come possibile soluzione. E la popolazione non ce la fa più, perché sono anni, sono quasi due decenni che succede questa cosa. Consideri che a Giugliano sono stivati in discariche autorizzate qualcosa come 15 milioni di tonnellate di rifiuti e ce ne sono circa altrettante sotto forma di ecoballe, che poi in realtà sono spazzatura imbustata, oltre che tutte le discariche abusive che sono disseminate, diciamo, sul territorio. Questo ulteriore affronto che viene fatto in questi momenti è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti oggi registro una partecipazione veramente copiosa alla manifestazione. Mi faccia sentire. Contro chi sono questi fischi? Penso che sia sentito abbastanza. Sento fuori, contro chi? Contro gli amministratori. Quindi è una protesta perché è stata in qualche modo rimessa in funzione questo sito di compostaggio? Sì, in realtà non è un sito di compostaggio, in realtà è un sito di stoccaggio per ecoballe, che però oggi accoglie il tal quale. Quindi, diciamo, c'è un doppio danno, no? Perché invece di accogliere soltanto il pessimo CDR che viene prodotto dagli impianti che oggi gli impianti CDR, ex CDR, oggi si chiamano STIR, viene abbancato anche il talfuale, per la misura, almeno dall'ordinanza del Presidente della provincia, di 10.000 tonnellate. Ecco, a Giugliano, quindi praticamente voi non volete, cioè è stato tradito quello che vi era stato detto? Sì, c'è stata proprio l'ordinanza addirittura del Consiglio dei Ministri che stabilisce la chiusura definitiva di Taverna del Re quale sito di stoccaggio in attesa di bonifica e di destino finale a queste, parliamo di 6-7 milioni di ecoballe. Ma perché è stata riaperta Taverna del Re? Perché dopo Terzigno, diciamo, adesso c'era un posto dove dover mettere l'immondizia che è rimasta nelle strade? Sì, perché in realtà, come dicevo prima, come in tutte le occasioni quando è arrivata la solita emergenza di turno, Giugliano rappresenta un territorio, oltre che abbondante, come dire, facilmente gestibile per deposito rifiuti, perché voi il fatto ci sono una serie di attività estrattive passate, quindi cave abbandonate, voi che essendo molto vasto ha tanto spazio nelle campagne. E quindi ovviamente trovato un grosso ostacolo a Terzigno, hanno pensato, il Presidente della provincia ha pensato di riaprire Taverna del Re. Però ci sono stati già anche degli scontri anche a Giugliano, ecco, che cosa è avvenuto negli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine? Ma in realtà i manifestanti fuori Taverna del Re. Stamattina c'è stato un tentativo di occupazione simbolica della casa comunale da parte di alcune donne dei quartieri più popolari di Giugliano, che esasperate dalla situazione hanno immaginato, visto che il sindaco non è nemmeno in sede in questo momento così delicato, allora probabilmente se non facciamo sentire la nostra voce nessuno saprà della gravità della situazione. Gli scontri sono avvenuti come in questi giorni fuori all'impianto di Taverna del Re, tra le forze dell'ordine arrivate in modo sproporzionale rispetto ai manifestanti, tra l'altro, in assetto a viso mossa e pronti, anzi molto spesso hanno dato, secondo me, hanno cercato, diciamo, anche loro lo scontro. Infatti l'episodio del geometra che è stato colpito in modo proprio vigliacco da parte di un agente di polizia con una testata senza nessuna ragione. Ecco, ma voi a questo punto vorreste che semplicemente non si riaprisse Taverna del Re? Taverna del Re purtroppo è già riaperta, noi vorremmo che la chiudessero definitivamente e che finalmente si passasse alla fase bonifica del territorio, visto che è un territorio, come dicevo prima, completamente devastato. Voi pensate di in qualche modo unire la vostra protesta a quella di Terzigno, a quella che è in Nuce, anche a Chiaiano? So che ci sono in piazza in questo momento anche rappresentanti delle altre, degli altri fronti aperti dell'emergenza rifiuti. Certo, è una battaglia che ci accomuna perché in Campania gli amministratori locali hanno dato, come dire, esempi pessimi per quanto riguarda la gestione del problema rifiuti. Pochi sono i comuni che riescono ad avere percentuali alti di raccolto differenziato. Immagini che Giugiano, che è una città di 120.000 abitanti, non riesce a far partire in modo serio la raccolta differenziata. Perché non riesce a farla partire? Perché non riesce a farla partire. Io dico, credo che, cioè in prima battuta la dico che c'è un'incompetenza e una cattivissima gestione amministrativa. Poi penso che probabilmente le emergenze, come ci siamo sempre abituati a vedere, sono comunque dei flussi di soldi che vanno verso aziende o verso diciamo, soggetti che in questo caso si arricchiscono e impoveriscono territorio, popolazione e creano soltanto danni. Scusi un secondo, devo un attimo rispondere, mi scusi un attimo. Bene. Eccomi qua, mi scusi che dovevo rispondere un attimo ad una telefonata. Allora, ancora, le volevo ancora chiedere un'altra cosa. Voi in qualche modo siete anche esasperati perché il vostro territorio è stato un territorio su cui il peso dell'emergenza dei rifiuti leciti e illeciti è gravato molto pesantemente, anche per questa ragione, anche per tutto il capitolo di scariche illecite, voi siete così esacerbati? Certo, non si dimentichi che noi siamo la famosa terra dei fuochi, no? Che ogni giorno, quasi tutti i giorni, assistiamo a dei grossi fuochi per distruggere rifiuti pericolosi, disseminati nel territorio. Insomma. Quindi, ecco, ma le ecoballe che sono a Taverna del Re, a quale emergenza risalgono? Le ecoballe sono in pratica... In realtà le ecoballe sarebbero il prodotto di CDR, che però, dato che il termodistruttore di Acerra funziona pochissimo e male, e da poco tempo anche, ovviamente si sono abbancate in questi tanti anni, da quando funziona l'impianto di CDR, non avendo previsto in rapido tempo la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, ovviamente ci troviamo sul groppone questi 3 milioni di ecoballe che stanno là. Immagini 3 che milioni di ecoballe? 6 milioni di ecoballe. Quanti? 6 milioni. Mediamente un'ecoballa pesa sulle 2 tonnellate, quindi siamo su 12 milioni di tonnellate. 12 milioni di tonnellate che più o meno, ecco, a che epoca risalgono? Quando è stata aperta la discarica? Taverna del Re, se non ricordo male, quale sono per Taverna del Re? Il pomeriggio, Taverna del Re, tarda mattina. Il pomeriggio e meglio, tarda mattina. Matti, allora, 5 anni fa. 5 anni fa è stata aperta. 5 anni a questa parte. Sì. Quindi in 5 anni ha raccolto 12 milioni rifiuti. Di tonnellate di rifiuti, perché in pratica dovevano essere ecoballe fatte dal secco, di provenienza della tovagliatura e lavorazione del CDR, quindi un carburante per termodistruttori o per termolizzatori. Ma in realtà il fatto che i rifiuti erano tanti, gli impianti lavoravano in tempi molto ristretti, quindi ovviamente dovevano velocizzare i processi di lavorazione e quindi hanno dato un prodotto di pessima qualità. Infatti, un'ultima cosa le chiedo, se la vostra protesta a questo punto, cioè voi avete chiesto degli incontri con qualcuno, ecco, come pensate di portare avanti la vostra protesta e fino a che punto siete disposti ad arrivare? Noi presideremo la città finché non viene richiusa Taverna del Re, finché non vengono rimessi sul tavolo i finanziamenti già legiferati dal 2008. Pensi che c'erano qualcosa come 500 milioni da destinare per le bonifiche di tutta quest'area? Nel giro di 3-4 anni, 3-4 finanziarie, siamo arrivati ad avere, mi pare, 14 milioni di euro che nemmeno oggi ci hanno dato per cominciare queste bonifiche sul territorio. Quindi se non si parla di bonifiche, noi non vogliamo più sapere di ospitare altri sul territorio. Quindi voi protestate, protesterete finché Taverna del Re non verrà chiusa e quindi finché non avrete delle assicurazioni sull'avvio di un processo di bonifica? Sì. Assicurazioni molto serie, cioè leggi ad hoc per farle partire nel più breve tempo possibile. E avete chiesto a chi sono i vostri interlocutori in questo momento? I interlocutori sono gli interlocutori, diciamo, istituzionali classici, a partire dai vari livelli. Cioè avete chiesto un incontro con la provincia? Con il presidente della provincia, con l'assessore regionale all'ambiente. E che cosa vi è stato risposto? Pare che domani ci sia un incontro tra i consiglieri comunali di Giugliano e il presidente della provincia, vogliono fare questo incontro preliminare e poi credo che noi aspetteremo i responsi della loro rendezvous per decidere cosa e come muoverci. Va bene, ok, grazie tante allora. Salve. Arrivederci.